Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari ascoltatori, a tutti voi un rinnovato saluto e augurio pasquale in questo tempo che ci accompagna verso la Pentecoste, verso la contemplazione del dono dello Spirito Santo. In questa nostra puntata mensile, essendo nel mese di maggio, ho pensato di approfondire insieme a voi uno dei temi forti delle prime pagine degli Atti degli Apostoli, quello che ci presenta Maria in attesa con la prima comunità cristiana del dono dello Spirito. Maria che da questa scena che emerge soprattutto nei primi due capitoli degli Atti degli Apostoli è stata poi anche chiamata, invocata con il titolo di Madre e Regina degli Apostoli, proprio perché insieme a loro è presente nel momento in cui lo Spirito Santo avvia l'esperienza della Chiesa. Per commentare questa scena attingo ad un brano, non direttamente degli Atti degli Apostoli, ma del Vangelo di Luca, un brano che molti di voi ascoltatori conoscono già bene, è il brano della Visitazione. Perché scelgo in questa nostra puntata questo brano? Perché a mio avviso la Visitazione ci fa capire cosa significa accogliere Maria nella nostra vita, ci aiuta a capire che cos'è un'autentica devozione mariana e cosa significa attendere insieme a Maria il dono dello Spirito Santo. Preghiamo vicendevolmente all'inizio di questa nostra trasmissione perché lo Spirito agisca nei nostri cuori e aiuti io che parlo ad essere sincero e rispettoso della parola di Dio, voi che ascoltate a trarre frutto da questa nostra conversazione. E poi nella seconda parte di questa nostra conversazione, quando ci sarà il dialogo tra di noi, chiediamo il dono che questo dialogo proprio arricchisca entrambi. Entriamo quindi subito sulla scena del nostro testo leggendo il brano della Visitazione, che come sapete si trova al capitolo primo del Vangelo di Luca, nei versetti dal 39 al 45. Ascoltiamo cosa dice Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne! E benedetto il frutto del tuo grembo, a che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Ecco, noi in questa trasmissione faremo un commento dettagliato a questo brano, cercando di scavare dentro le parole che Luca utilizza per descrivere la scena e anche cercando di mettere un po' in relazione queste parole con la nostra vita. Cominciamo dagli inizi. In quei giorni Maria si alzò. La prima domanda che viene spontanea aprendo questo brano è chiedersi cosa vuol dire in quei giorni, quali sono i giorni che vengono evocati da Luca. Ed è importante tenere presente la risposta a questa domanda. Sono i giorni in cui Maria è reduce di un'esperienza forte, molto intensa, un'esperienza unica, quella dell'annunciazione dell'angelo Gabriele, quindi l'esperienza dell'incarnazione di Dio nel suo grembo. Come Maria vive questo momento? Se noi ci immedesimiamo un pochino in quello che questa giovane ragazza poteva sperimentare, penso che sia lecito immaginare due possibili reazioni da parte di Maria. La prima reazione è ovviamente quella di una immensa gratitudine, anche una consapevolezza della propria piccolezza, della propria povertà, già emersa nel momento in cui Maria dice: «Eccomi, sono la serva del Signore». Ma nello stesso tempo, accanto a questo, forse emerge anche un interrogativo in Maria. Un interrogativo nel senso di chiedersi: ma quello che io ho vissuto veramente è qualcosa che viene da Dio? Oppure è un'illusione? Io ho incontrato Lui o ho incontrato qualcun altro? Certamente Maria prova dentro di sé tutto quello che sono le sensazioni, i sentimenti che provengono da un'autentica esperienza spirituale, che sono la pace, la serenità, una gioia profonda. Però non dobbiamo dimenticarci che Maria è pur sempre sola, al centro e ai margini della storia. Sola al centro per quanto ha vissuto, perché è un'esperienza unica che capovolge tutta la logica, il modo di immaginare la storia della salvezza, e ai margini perché in questo momento non ha nessuno con cui condividere quello che lei ha vissuto, con chi lo può condividere. E poi, se tutto quello che lei ha vissuto è vero, restano aperti alcuni interrogativi. Perché Dio ha scelto questa via per incarnarsi? Perché si è incarnato prima che Maria e Giuseppe andassero a vivere insieme, creando un sacco di complicazioni praticamente in questa coppia di giovani sposi? Come spiegare questa cosa ai familiari, a Giuseppe? Come giustificarsi davanti alla legge che non ammetteva una gravidanza prima che i due andassero a vivere insieme? Ecco, c'erano sufficienti interrogativi per lasciarsi disorientare. Ora, di fronte a questo, cosa dice il testo? In quei giorni Maria si alzò. Teniamo ben presente questo verbo. Maria si alzò, cioè è decisa, rompe il cerchio di quei pensieri e di quei ragionamenti che, circondandola, rischiano di vanificare un'esperienza così grande. E la sollecitudine di questo suo alzarsi e mettersi in cammino è la sollecitudine di chi è convinto che l'esperienza viene da Dio e si mette in cammino verso la direzione che Dio stesso gli ha dato. Dio non ha descritto a Maria quello che sarebbe successo dall'inizio alla fine, dal momento in cui lei ha detto eccomi fino alla fine della sua vita, però gli ha illuminato il piccolo passo che gli stava davanti e Maria si alza e compie subito questo primo passo e quindi vince quella che poteva essere la prima tentazione del male: intontire con mille perché, con mille domande, quello che lei stava vivendo. Vedete, cari ascoltatori, cari fratelli, sorelle, spesso noi corriamo questo rischio di fronte a qualcosa che magari Dio ci chiede, a qualcosa di difficile, a qualcosa che ci coinvolge con un senso di responsabilità, ci mettiamo a chiederci mille perché. E un perché dopo l'altro succede che il disegno di Dio resta prima affaticato, poi soffocato, poi annullato. Proprio come nella parabola del seminatore, il seme germoglia e cresce, ma poi le preoccupazioni del mondo, le ansie del quotidiano l'hanno soffocato come le spine e il seme non è riuscito a crescere. Come continua il testo? Il testo dice: in quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Se noi dovessimo fermarci solo a questo primo versetto, che è il versetto 39, noi di per sé non sapremmo ancora dove Maria si sta dirigendo. Ci viene solo detto che lei si mette, si alza e va in fretta verso la regione montuosa. Ora, per chi conosce un pochino la Bibbia, non fa fatica a riconoscere nei passi di Maria la logica, i passi di alcuni personaggi della storia antico-testamentaria. Pensiamo ad esempio ai passi di Abramo, che si incammina verso la regione montuosa insieme al figlio Isacco. di fronte a una chiamata particolare di Dio, quella del sacrificio di quel figlio. Pensiamo a Mosè, che si incammina verso il monte per ricevere da Dio le tavole della legge, si incammina più di una volta verso quel monte, anche lì con una vocazione che è diventata pesante, perché si tratta di portare sulle spalle il peso di un popolo che è di dura cervice. Pensiamo a Elia che deve incamminarsi verso il monte con la forza datagli dal cibo dell'angelo per 40 giorni e 40 notti, in un momento in cui anche per lui la vocazione si fa faticosa. Il testo dice addirittura che non voleva più mangiare né bere, voleva lasciarsi morire, perché si era reso conto che neanche lui, con tutta la sua passione, con tutta la sua forza, riusciva a produrre un cambiamento all'interno del popolo e soprattutto all'interno dei re. Quindi Maria non si pone, non fa altro che porsi sul cammino dei grandi protagonisti della storia della salvezza, e tutti questi protagonisti sono stati in qualche modo segnati nella loro vocazione di partenza. Dire eccomi non è un fatto semplice, richiede decisione, richiede coinvolgimento, richiede un cammino verso la montagna. E anche in questo caso Dio non accende le lampadine tutte insieme, ne accende una alla volta. Ad Isacco che chiede ad Abramo, ma padre, ecco qui la legna per l'olocausto, stiamo camminando verso il monte, ma dov'è l'agnello? Abramo risponde, Dio provvederà, non sa cosa rispondere. A Elia che vorrebbe lasciarsi andare, l'angelo dice, tu cammina 40 giorni e 40 notti, vai verso l'Oreb, e poi là ti sarà detto cosa deve essere fatto. Ugualmente Mosè, cioè nessuno riceve prima quello che deve succedere. Avviene adagio, adagio. E allora ecco la scena di apertura, della scena della visitazione, che già ci presenta Maria come madre e maestra nel modo in cui lei vive la propria vocazione. E adesso vediamo cosa succede nel momento in cui giunge nella sua prima meta, che è la casa di Zaccaria. Vediamo come Maria è già qui portatrice dello Spirito Santo. Ma prima di continuare lasciamo un breve stacco musicale in cui vi chiedo di rileggere questi versetti della scena della visitazione, in modo che poi, continuando nel nostro commento, riusciamo a seguire meglio. Un breve stacco musicale. Ecco, continuiamo nel nostro commento al brano della visitazione. Allora abbiamo letto come Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Il testo poi continua dicendo, entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. E allora, da questo versetto noi ci rendiamo subito conto che Maria non solo ha vissuto l'annunciazione, ma colui che lei porta in grembo trasforma le sue visite in altrettante annunciazioni. Se nel capitolo, nel brano precedente veniva descritto l'annuncio dell'angelo a Maria, la visitazione è anche una sorta di annuncio di Maria a Elisabetta. Da che cosa lo capiamo? Lo capiamo dagli elementi che compongono la scena. Prima di tutto l'ingresso. Come nella scena dell'angelo viene sottolineato l'ingresso, entrato da lei, disse gioisci, Ave Maria, Caire Maria, ugualmente qui viene sottolineato l'ingresso, entrata nella casa di Zaccaria. Perché c'è la sottolineatura dell'ingresso sulla scena? Sembra essere una cosa così descrittiva, ma non è puramente descrittiva. nelle due scene sembra quasi che l'Evangelista voglia dirci che Dio, quando passa nella nostra vita, non si limita a passare, non si limita a darci una pacca sulle spalle. Dio entra nella vita delle persone per segnarle. Quindi il momento in cui l'angelo entra nella casa di Maria segna quell'esistenza. Ugualmente l'ingresso di Maria nella casa di Elisabetta segna quell'esistenza. Quindi capite molto bene che vivere la devozione di Maria, Mariana, significa permettere a Maria di entrare nella nostra vita per segnare la nostra vita. C'è un brano molto bello nel Vangelo di Giovanni che abbiamo letto, è stato proposto dalla liturgia la scorsa settimana, dove veniva detto come Gesù descriveva la vocazione dei suoi discepoli, no? E parlando ai discepoli Gesù dice: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Ci sono bene 5 tappe nella descrizione di questa vocazione che noi potremmo applicare benissimo a Maria. Prima di tutto c'è la scelta, e la scelta la capiamo tutti. Scegliere significa prendere una persona e isolarla dall'altro, dal resto del contesto, cioè attribuirgli un significato particolare. Quindi io vi ho scelto, ma vi ho anche costituiti. Costituiti significa che non è solo una scelta e la persona resta tale quale. La persona viene investita di una responsabilità, di una identità, che la cambia rispetto a il modo di vedersi rispetto a prima. Vi ho scelto, vi ho costituiti. I discepoli sono costituiti per andare, non per rimanere seduti dove sono. Se sono stati scelti, sono stati scelti per essere inviati, per andare. E per andare e portare frutto, ecco la quarta tappa, cioè suscitare qualcosa da cui gli altri possano nutrirsi. E un frutto, il vostro frutto, dice, rimanga, non qualcosa di passeggero, ma qualcosa che rimane. Ecco, ugualmente è il caso di Maria. Maria è stata scelta, è stata costituita madre di Dio per portarlo agli altri, per portare frutto, e perché questo frutto duri per la vita eterna. Lei ha portato il generatore della vita. Ugualmente è entrata nella casa di Zaccaria, Maria porta tutto questo. Notate anche il secondo aspetto che viene sottolineato in questo breve versetto 40. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Come mai viene posto l'accento sul saluto? Ecco, il saluto anche qui è una dimensione molto forte delle annunciazioni. Se voi ricordate, nel momento dell'annuncio dell'angelo a Maria, cosa succede? Succede che Maria restò turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. Maria non si pone l'interrogativo sul perché si trova l'angelo di fronte, si pone l'interrogativo sulle parole, sul saluto dell'angelo. Quindi quel saluto lavora dentro di lei. Ugualmente, entrata nella casa di Zaccaria, Maria saluta Elisabetta e vedremo cosa produce questo saluto. È il saluto, è la parola di Maria rivolta a Elisabetta che suscita qualcosa nella storia di questa donna, nella storia di questa famiglia. E allora anche qui, da un punto di vista di devozione mariana, nel momento in cui noi permettiamo a Maria di visitare la nostra vita, il suo saluto va accolto, e nel momento in cui il suo saluto viene accolto, quel saluto produce qualcosa dentro di noi, suscita qualcosa, ed è segno che veramente Maria è entrata nella nostra vita, altrimenti sono puri atti o devozioni esterne, non è qualcosa che incide nel cuore. E poi il testo continua: entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. E qua è curioso, magari non ci pensiamo quasi mai, però se uno entra nella casa di una persona, saluta quella persona, non un'altra. Se Maria entra nella casa di Zaccaria, il padrone di casa è Zaccaria, e allora come mai Luca ci dice che è entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta? come mai questa inversione dei ruoli? Come mai Maria parte dai margini? Perché dietro questa scelta c'è una logica, c'è una logica che è la logica di Dio, e la logica di Dio parte sempre dai margini, non dal centro, paradossalmente. Il racconto di Luca si era aperto al Tempio di Gerusalemme, ma al Tempio di Gerusalemme la scena si era conclusa in malo modo, mettendo il silenziatore sulle labbra di Zaccaria. Ora invece il disegno della nuova alleanza riparte con una donna a Nazareth e con una donna sterile nella regione montuosa della Giudea. E poco prima, tra l'altro, abbiamo anche saputo che Elisabetta era rimasta nascosta ben 5 mesi. Ora non è più nascosta, ora viene salutata pubblicamente, e questo saluto pubblico romperà quel nascondimento nella vergogna che caratterizzava Elisabetta. E allora cosa ci dice questo versetto? Maria non è solo colei che si alza rompendo i 1000 interrogativi che potevano affaticare la sua mente. Non è nemmeno solo colei che cerca nella direzione che Dio gli ha fatto intravedere, perché nell'annuncio gli aveva parlato di Elisabetta, quindi va subito in quella direzione. Ma Maria è colei anche che si confronta. Avrebbe potuto aspettare tutto dall'alto. Avrebbe potuto, pensare che Dio insieme a lei avrebbe costruito ogni cosa. E invece no, Maria si confronta con un'altra persona, cerca il dialogo, e attraverso questo dialogo, attraverso la condivisione dell'esperienza di vita, il disegno di Dio emergerà. Emerge, in altre parole, una delle virtù di Maria, l'umiltà del cuore. Che è un'umiltà che non solo la pone a servizio della cugina anziana di Elisabetta, ma anche la pone in dialogo con lei. Dicevo prima che il saluto dell'angelo aveva prodotto tutta una serie di cose nel cuore di Maria, ora il saluto dell'angelo produce tutta una serie di cose nel cuore di Elisabetta. Il testo infatti continua al versetto 41 dicendo: appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Dobbiamo sostare un attimo sul verbo utilizzato da Luca per dire il sussultare di Maria, il sussultare del bimbo nel grembo di Elisabetta, scusate. Il verbo è il verbo stirtao, è il verbo che indica la danza. Là dove giunge Maria si innesta un movimento di coinvolgimento pieno. È come se una scena che fino adesso era rimasta statica, perché abbiamo a che fare con la casa di 2 persone anziane, un sacerdote Zaccaria che è rimasto muto, una donna che è rimasta nascosta per 5 mesi. Ecco, nel momento in cui entra in scena Maria, tutto si scioglie, e tutto si scioglie iniziando con un movimento di danza. Questa scena ha un eco antico testamentaria molto forte, perché si basa praticamente su un testo, riprende un testo del secondo libro di Samuele, esattamente il capitolo 6. Nel capitolo 6 del secondo libro di Samuele, l'autore sacro racconta il trasporto dell'arca a Gerusalemme e ci dice che durante il trasporto dell'arca a Gerusalemme, lascio poi a voi ascoltatori, la lettura per intero di questo testo, che è molto significativo, magari nella lettura provate ad annotarvi tutte le volte che emerge il verbo danzare in questo testo. Praticamente ci dice che quando Davide stava per portare l'arca a Gerusalemme e si rende conto che l'arca è qualcosa che porta in sé il mistero di Dio, perché chi la tocca in malo modo viene subito punito e punito con la morte, decide di lasciare quest'arca per 3 mesi in una casa ai margini di Gerusalemme, nella casa di Obed-Edom. Dopo però che tutti gli dicono, ma guarda che da quando tu hai lasciato la casa, l'arca nella casa di Obed-Edom, la pienezza delle benedizioni è discesa su quella casa. Quindi dopo 3 mesi Davide si mette nuovamente a danzare e porta l'arca pieno di gioia e pieno di danze a Gerusalemme. E danza così forte che non si accorge che mentre danza i suoi vestiti svolazzano e si vede la sua nudità. Alla finestra lo vede arrivare Mical, la figlia di Saul, nonché moglie di Davide, e Mical disprezza in cuor suo Davide. Dopodiché, quando tutta la festa è finita, gli va incontro a Davide e gli dice: bell'onore si è fatto il re davanti alle figlie e ai figli del suo popolo, scoprendosi come un uomo da nulla. E Davide risponde a Mical dicendo: io mi scoprirò ben più di così, se è per lodare il Signore, e mi abbasserò, umilierò me stesso, purché sia data gloria all'arca che porta, ecco, il mistero della sua presenza. E quell'episodio termina dicendo che da quel giorno Mical rimase sterile per tutta la vita, proprio per avere disprezzato il momento che si stava vivendo. Ora, la scena della visitazione ha molti elementi in comune con questo racconto di 2 Samuele 6. Prima di tutto il periodo in cui Maria sosta a Ein Karem è lo stesso periodo in cui l'arca sosta fuori di Gerusalemme, praticamente 3 mesi. Ma gli abbinamenti tra i 2 brani ci permettono di vedere Giovanni Battista come il Davide, il nuovo Davide, che introdurrà a Gerusalemme l'arca di Dio. Cioè, il Giovanni Battista che danza nel grembo di Elisabetta non è altro che il precursore di colui che presenterà a Gerusalemme l'arca del mistero di Dio, presenta il figlio e presenta la madre come arca del figlio. Tanto vero che, non dimentichiamolo, dopo la nascita di Gesù, solo il Vangelo di Luca racconta la presentazione di Gesù al Tempio. Cioè c'è bisogno che questo, dopo la danza, l'arca venga portata proprio a Gerusalemme e Gesù viene portato dalla madre, perché c'è tutto questo richiamo con le pagine dell'Antico Testamento. Ugualmente, come nell'Antico Testamento Mical e la sua punizione evocano la fine del regno di Saul per inaugurare il nuovo tempo, che è il tempo di Davide, così ora il momento dell'incontro tra Maria e Elisabetta segna la fine dell'antica alleanza con il passaggio al periodo della nuova alleanza che sarà portato avanti da Gesù. Davide poi viene deriso da Mical, dicevamo, no? Perché si è denudato agli occhi del popolo assumendo una posizione di vergogna. Il tema della vergogna domina anche la scena della visitazione. C'è vergogna nel fatto che Elisabetta sia rimasta nascosta per 5 mesi. Nella ricerca di Maria c'è un elemento di vergogna, perché Maria deve giustificare in qualche modo quello che sta succedendo nel suo grembo, altrimenti tutto questo è motivo di vergogna. E tutto questo non fa altro che anticipare la via con cui Dio porterà a compimento la storia della salvezza, che è una via di kenosi, di abbassamento, di vergogna. Sia Giovanni Battista che danza, sia il Gesù di cui Giovanni Battista è precursore, moriranno secondo una logica di vergogna e di umiliazione. Uno, guarda caso, nel contesto di un banchetto di compleanno, nel contesto di una danza, Giovanni Battista, e qua è curioso, è misterioso. La vita di Giovanni Battista si apre e si chiude all'insegna della danza. Danza vedendo il precursore e muore sullo sfondo delle note della danza della figlia di Erodiade, che danzò e piacque ad Erode e fu la causa della rovina di Giovanni Battista. E poi l'altro percorso ignominioso di kenosi, di abbassamento, è quello del figlio di Dio, morto come un condannato maledetto fuori dalle mura di Gerusalemme, considerato come un maledetto, maledetto colui che pende dal legno, no? Diceva il testo del Deuteronomio. Quindi porta dentro di sé la via dell'ignominia. Ecco, vedete come una pagina dell'Antico Testamento sta sullo sfondo della pagina del Nuovo Testamento, aiutando a cogliere accoglierne il significato, e tutto sotto l'immagine della danza. La danza apre un'era nuova, ma anche una logica nuova. E come nell'Antico Testamento Davide dice: ma com'è possibile che l'arca possa venire da me? E quindi la fa sostare 3 mesi. Ugualmente Elisabetta, nel momento in cui vedrà entrare Maria, gli dice: a che cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? Stesse espressioni, stessa modalità stilistico-narrativa, per far capire come i due episodi hanno degli elementi che si richiamano l'un l'altro e aiutano a entrare in profondità con il mistero della visitazione. Quindi qua emerge proprio un altro elemento: laddove entra in scena Maria, si produce un'azione di danza, cioè entra in scena la gioia. Continueremo il nostro commento dopo un altro breve stacco musicale e cercheremo di approfondire questo aspetto. Laddove entra Maria, entra in scena la gioia, quindi un breve stacco musicale. Dicevamo che appena Maria entra in scena gli effetti si notano subito, perché appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Questo era il primo effetto, l'effetto della danza, quindi l'irruzione della gioia. Subito dopo il secondo effetto: Elisabetta fu colmata di Spirito Santo. E allora ecco qui la scena che fa della visitazione il migliore commento di Maria nel Cenacolo. Maria nel momento dell'Annunciazione ha ricevuto il dono dello Spirito, ma questo dono lei non lo tiene per sé. Chiunque incontra diventa luogo dello Spirito Santo, chiunque incontra viene riempito di questo Spirito, ed Elisabetta fu colmata di Spirito Santo. Provate a ripercorrere i primi 2 capitoli di Luca. C'è pieno di persone che sono già ricolme di Spirito Santo, ma si nota subito una cosa: sono tutte persone che hanno a che vedere con Maria. Dopo Maria, al capitolo 1, versetto 36, che ci viene detto: lo Spirito Santo scenderà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra, che è il momento dell'Annunciazione, subito abbiamo la scena di Elisabetta qui. Avremo la scena di Zaccaria dopo, al momento della nascita di Giovanni Battista, quando esplode con il cantico del Benedictus. Avremo ancora Simeone che, mosso dallo Spirito Santo, verrà spinto al Tempio. Tutte figure, Elisabetta, Zaccaria, Simeone, che sono ricolme di Spirito Santo perché in relazione a Maria. Accogliere Maria significa non solo essere raggiunti dalla gioia, che è il primo frutto con cui viene declinato il dono dello Spirito Santo nella lettera ai Galati, e accanto alla gioia c'è subito l'essere ricolmi di Spirito Santo, l'essere ricolmi di Spirito Santo. E poi arriviamo al terzo frutto. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Ma ditemi un po', se questa donna che era rimasta nascosta per 5 mesi, nel momento in cui rompe Maria nella sua casa, non solo vive la gioia, non solo è colmata di Spirito Santo, ma si mette pure a gridare i 4 venti, dov'è il nascondimento? Non c'è più. Questa donna torna sul palcoscenico della storia con tutta la sua dignità, con tutta la sua forza. e non solo sale sul palcoscenico della storia, ma si erge a maestra. Ecco lei che sa leggere il passato e diventa profetessa del futuro. Sa leggere il passato proclamando Maria, benedetta tu fra le donne. Quali donne? Le donne sono certamente Sara, Rebecca, Rachele, Ruth, Giuditta, Esther. Maria viene proclamata come colei che ha buon diritto a stare in mezzo a queste donne, perché sarà, viene vista da Elisabetta come colei che segnerà una svolta nella storia di Israele. E poi le parole forti, benedetto il frutto del tuo grembo. Senza che niente possa essere ancora visibile, Elisabetta riconosce che nel grembo di Maria c'è un frutto che sta germogliando. E a quel frutto lei dà un nome. A che cosa debbo che la madre del mio Signore venga a me? Quel frutto nel grembo è il suo Signore. E ora non è difficile capire come Maria abbia trovato in questo incontro, nel confronto di condivisione con Elisabetta, la migliore conferma di quello che lei andava cercando, di quello che, di cui il suo cuore aveva bisogno, perché in queste parole non poteva poi non esplodere sulle labbra di Maria il canto del Magnificat. Perché quelle parole erano la conferma di tutto ciò che lei aveva vissuto nel contesto di Nazaret. Ma già Maria è colei che porta Gesù e lo porta producendo gioia, lo porta portando lo Spirito Santo, lo porta innestando in coloro che incontra la capacità di leggere la storia, di leggere il passato facendone memoria nel modo migliore, e leggendo il futuro attraverso questa capacità da parte di Elisabetta a dire che cosa devo che la madre del mio Signore venga a me. Ecco, uno degli elementi più espressivi dell'azione dello Spirito dentro di noi è la gioia. Già la volta scorsa avevamo toccato questa tematica, ma vorrei riprenderla. La vorrei riprendere perché proprio nei grandi padri del deserto, quando i padri descrivono quelli che sono gli spiriti della malvagità che agiscono dentro di noi, menzionano tra questi spiriti la tristezza. E pensate che Evagrio Pontico, che ha dedicato proprio un volume agli 8 spiriti della malvagità, descrive così la tristezza. La tristezza è un inquilino dannoso, un confidente funesto, un verme nella carne, uno che ha il potere di imprigionare un intero popolo, perché gli rapisce la speranza. Ecco, il rischio di Elisabetta era proprio questo, quello di, come dire, rimanere chiusa alla visione di Dio nella storia. L'incontro con Maria invece squarcia le cose. Guardate che avere un figlio in età avanzata non era solo il segno di un miracolo di Dio, poteva anche essere visto in un modo non del tutto positivo. È come i parti gemellari nel primo secolo erano viste come qualche cosa che sfuggiva all'ordine delle cose ed erano visto anche con un certo sospetto. Ora l'incontro con Maria invece rompe il rischio di questa gioia, il rischio di questa gioia soffocata, aprendola invece al vero dono di Dio. Un'altra descrizione della tristezza e dei suoi pericoli viene fatta in modo magistrale da Giovanni Cassiano. Giovanni Cassiano che anche lui descrive gli 8 pensieri viziosi descrivendo la tristezza la presenta così. La nostra battaglia deve essere contro lo spirito della tristezza che oscura all'anima ogni contemplazione spirituale e le impedisce ogni opera buona. Quando infatti questo spirito malvagio afferra l'anima e la ottenebra tutta, non le permette di compiere le sue preghiere con animo pronto, né di perseverare nel profitto che trae dalle sacre scritture. Non lascia che l'uomo sia mite e tenero verso i fratelli. Chi non è gioioso è un brontolone per natura e brontola sempre contro e mormora sempre contro gli altri, non gli va mai bene quello che gli altri fanno. Insomma, ingenera odio per qualsiasi tipo di attività e per la promessa stessa della vita. In una parola, continua Cassiano, la tristezza, confondendo tutte le salutari decisioni dell'anima, rilassando nel vigore la costanza, la rende come instupidita e paralizzata, tenuta dal pensiero della disperazione. Ed è proprio così, allora capiamo perché la prima parola dell'Annunciazione è Kaire, gioisci. E il primo frutto dell'incontro, della visita tra Maria ed Elisabetta è la danza, la gioia, la capacità di rileggere in occhi, con occhi nuovi, con occhi luminosi, con occhi gioiosi, la storia della salvezza. E allora capiamo anche cosa vuol dire avere una vera devozione mariana. Una vera devozione mariana porta dentro il cuore la gioia autentica, che non è la felicità frizzante, ma è qualcosa di profondo. E quando sperimentiamo la tristezza, non è questa tristezza che paralizza, che porta a mugugnare, che porta a chiudere la porta in faccia agli altri, che porta all'isolamento, quindi a chiudersi in se stessi, ma è la tristezza che fa rimboccare le maniche e produce frutti di conversione, frutti di conversione. E terminiamo la lettura del nostro racconto quando Elisabetta non ha ancora terminato le sue parole, dice: appena il saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato, ha danzato di gioia nel mio grembo, quindi notate, torna il tema del saluto, e poi continua e dice: e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. E questo è un bellissimo elogio a Maria, perché vedete, la fede di Maria, l'eccomi di Maria, l'obbedienza di Maria a Dio non sta solo nell'eccomi. Nell'eccomi Maria ha manifestato la disponibilità a Dio. Anche noi, quando qualcuno ci chiede di fare qualcosa, possiamo dire ok, lo faccio, e quindi c'è disponibilità. Ma la disponibilità non basta a rendere piena un'azione. Io posso fare una cosa, ma farla col muso lungo. Posso fare una cosa e farla controvoglia. Posso dire eccomi, però questo eccomi non è pieno. Maria invece, spiega bene Elisabetta, ha creduto anche nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Non si è limitata a dire eccomi, ma ha creduto che in quell'eccomi passava realmente la storia di Dio e che quello che Dio le aveva detto si sarebbe compiuto. Quindi accanto alla disponibilità c'è la pienezza della fede. Questo rende Maria madre di Dio, l'unione di questi due elementi. Anche nella vita religiosa, l'obbedienza non è solo disponibilità. Quando una superiora sposta una suora da un posto all'altro, uno può anche essere disponibile e dire ok, vado da Roma a, non lo so, a Torino, è disponibile, ha cambiato comunità, però bisogna vedere come l'ha fatto. Non basta la disponibilità perché l'obbedienza sia piena, accanto alla disponibilità ci vuole la fiducia, credere che lì passa in pienezza l'azione di Dio e Dio porta a compimento qualcosa. Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Detto questo, il testo apre, si schiude, spalancando le porte sulla storia della salvezza e trasformando questa pagina di Luca in una grande pagina profetica, con il canto del Magnificat. Ecco, vivere e accogliere Maria nella nostra vita significa vivere il mistero della visitazione, ma vivere il mistero della visitazione significa rivivere in noi quello che ha vissuto Elisabetta, rivivere il mistero della danza, far danzare il Cristo che è nel nostro grembo, e vivere il mistero della gioia. Poi, secondo aspetto, è tornare ad essere protagonisti sulla storia della salvezza colmi di Spirito Santo. Saper far memoria e saper affacciarsi sul futuro, avendo profezia, l'autentica profezia. E permettetemi qua di chiudere questa nostra riflessione con un commento che attingo a un nostro autore, Giuseppe Forlai, che commentando in un suo testo proprio la scena della visitazione scrive così. Lo metti in nota, è una piccola noticina a margine del suo testo, ma questa noticina è intensa, merita. Dice, immagina quanto detto, mi sia consentito affermare che il riscontro più importante della vera devozione a Maria è la capacità di profezia. Chi entra veramente in intimo contatto con la Vergine non rimane uno spettatore della storia o della vita della Chiesa, ma diventa persona sommamente spirituale, cioè capace di guardare la realtà con gli occhi di Dio. Una devozione a Maria che lascia le cose come stanno, che non scorge i veri bisogni, difficilmente si potrà considerare autentica. E continua, dove c'è Maria c'è profezia, dove c'è profezia c'è novità evangelica. Per questo fare della devozione alla Vergine il vessillo di un tradizionalismo cattolico di bassa lega è quanto di più falsificante ci possa essere. Ecco, cari ascoltatori, entrare a contatto con le pagine bibliche, con le pagine del Vangelo, ci porta al cuore della devozione mariana e ci porta anche a respirare la grande responsabilità che si mette in circolo nel momento in cui noi apriamo la porta a Maria e permettiamo a Maria di entrare nella nostra casa e di salutarci, come era entrata nella casa di Zaccaria e aveva salutato Elisabetta. Lasciamo ora spazio, dopo un breve spazio musicale, alle vostre domande. Ecco, vi raccomando sempre la parte delle domande, perché se queste nostre trasmissioni portano frutto, è anche grazie ai vostri interventi, grazie ai vostri interrogativi, che permettono di affrontare, di cogliere alcune sfumature che magari nel commento non sono emerse. Quindi ringrazio fin da ora quanti tra voi interverranno arricchendo la nostra conversazione. Pronto, buonasera. Buonasera Padre Perego, a lei e a tutti gli ascoltatori. Sì. Se permette una domanda. Con chi parlo? Aldo da Carbone. Bene, bene. Padre, Giovanni Battista fu santificato dallo Spirito nel seno della madre a 6 mesi. Ora, Gesù dice del cristiano, il più piccolo del Regno dei Cieli e più grande Giovanni Battista. Come si spiega questa antinomia? La ringrazio, certo, padre. Certo. Grazie, signor Aldo, per questa sua domanda. Ovvio che l'incontro con Cristo porta ad, se Maria suscita tutto questo movimento nella vita di Elisabetta, immaginate la forza che può produrre un autentico incontro con Cristo. Tuttavia, ecco, l'incontro con una persona non significa che noi abbiamo, come dire, capito tutto di quello che quella persona è o di quello che il Signore chiede da noi. Il fatto di incontrare Cristo non significa che noi abbiamo chiarezza su tutte le cose che dobbiamo fare. Nemmeno Maria l'ha avuta, dicevamo proprio all'inizio che passo dopo passo, luce dopo luce, il suo cammino si è aperto dinanzi a lei. Giovanni Battista ha vissuto un pochino questa fatica, è sempre l'Evangelista Luca che ce lo dice, no? Che a un certo punto resta quasi smarrito di fronte all'insegnamento, agli incontri stessi di Gesù, e manda alcuni suoi discepoli dicendo, ma senti un po', sei tu il Messia che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Ecco, questa domanda di Giovanni Battista, prigioniero che probabilmente vive un momento di smarrimento come l'hanno vissuto i grandi profeti, soprattutto quel profeta a cui Gesù lo paragona, Elia, in quel momento si trova smarrito di fronte a una logica che, di Dio che non aveva messo in conto, che era probabilmente la logica della kenosi, quella logica del mistero pasquale che passa attraverso la passione, la morte, la sofferenza per arrivare alla risurrezione. E allora in quel contesto Gesù dice questa frase: entrare nella logica del regno rende più grandi di Giovanni Battista, che non ha avuto modo, perché la sua storia è andata in diverso modo, non ha avuto modo di accedere alla pienezza della novità del regno. Giovanni Battista è l'ultima staffetta, l'ultima persona della staffetta dell'antica alleanza che ora viene trasmessa e fa un passo decisivo che trasforma dall'interno le cose nella figura di Gesù. Quindi contestualizzato in questo modo, penso che la frase di Giovanni Battista riusciamo a capirla più in profondità. Grazie Aldo per la tua domanda. Pronto? Buonasera, sono Maria da Milano. Maria da Milano. Mi sente? Dica Maria. Sì, la sento. Le domande sono due. Primo, io ho sempre intuito che lo Spirito Santo è nella persona di Maria, cioè sulla terra vive lo Spirito Santo perché vive Maria, Maria che continua ad apparire. Io ho sempre chiesto ai sacerdoti, lo Spirito Santo, essendo una persona, io l'ho visto in Maria, piena di Spirito Santo. La seconda domanda è, le tre virtù teologali, cioè la fede, la speranza e la carità, sono proprio incarnate in Maria, cioè la fede dicendo sì, la speranza che ha dato la speranza appunto del figlio di questo Gesù Cristo che viene sulla terra e che praticamente dà la speranza a tutta l'umanità della risurrezione, e la terza è l'amore, la carità. Queste sono le mie domande, le ascolto per radio, buonasera. Grazie signora Maria per le sue domande che erano un pochino intricate, nel senso che toccano ovviamente degli aspetti della teologia un pochino complessi. Certamente il legame tra Maria e lo Spirito Santo è forte, però non vanno ovviamente confusi. Nel testo dell'Annunciazione è chiaramente detto che nel momento in cui l'angelo risponde all'interrogativo di Maria, come avverrà perché non conosco uomo, ti rispose l'angelo, lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Quindi la pienezza dello Spirito entra dentro la Vergine e Maria diventa in questo modo anche colei che poi trasmette ciò che porta nel cuore. In fondo lo sperimentiamo anche noi nel nostro piccolo, quando noi viviamo delle esperienze forti e sentiamo il bisogno di condividerle, quando incontriamo una persona trasmettiamo qualcosa di forte, trasmettiamo qualcosa che non è limitato a parole o a descrizioni, ma a emozioni, a elementi intensi, così chi è carico di Dio quando incontra l'altro non può che trasformare quell'incontro in una autentica visitazione, dove Dio mette in moto la sua grazia, dove Dio mette in moto il suo spirito, ed è quanto succede nella scena della visitazione. Poi lei ha evocato le tre virtù teologali, no? La fede, la speranza e la carità, dicendo che Maria ha vissuto tutte e tre. Potremmo commentare in modo molto semplice. Il percorso di ogni discepolo, il percorso di ogni cristiano, io tengo sempre a sottolineare questa sfumatura, non è un discorso di imitazione. Noi spesso diciamo ok, devo imitare Gesù, devo imitare Sant'Antonio, devo imitare San Giovanni Paolo II. Noi non siamo chiamati a imitare. Imitare è troppo poco per il cristiano. Il discorso dell'imitazione poteva andare bene nell'Antico Testamento. Noi siamo chiamati a conformarci a Cristo, come dice bene l'Apostolo Paolo, rivoluzionando una certa, una certa spiritualità diffusa nel primo secolo. La spiritualità cristiana è una spiritualità di conformazione, Cosa significa spiritualità di conformazione? Significa permettere al Cristo che abita dentro in noi per il battesimo di crescere, di attirare a sé il nostro modo di pensare, il nostro modo di parlare, il nostro modo di volere, di agire, di amare, conformandoci a sé. Il compito del cristiano è quello di lasciare vivere, trasparire il Cristo che vive dentro di sé. Maria per eccellenza è colei che ha vissuto praticamente la duplice logica, e questo è stupendo di Maria, perché Maria ha dato forma a Gesù, ma Gesù ha dato forma a Maria, ha preso forma in Maria pienamente, cioè ha conformato Maria a sé. Maria è colei che più di ogni altra vive il Cristo, rende visibile il Cristo, e proprio per questo nella scena della Pentecoste, che tra qualche settimana vivremo anche liturgicamente, Maria è colei che insieme alla comunità attende lo Spirito. Lei è già ripiena dello Spirito Santo, ma è il periodo che la separa della Pentecoste, prepara quei discepoli a ricevere essi stessi quel dono come lei lo ha ricevuto e come lei si è conformata a Cristo. Sono anche convinto che quando Gesù muore sulla croce, no? E nel Vangelo di Giovanni dice, figlio, ecco tua madre. Non è che Gesù sta affidando a Giovanni la madre per consolarla. Il contesto, il significato di quella scena no, non sta lì. Non è che Maria era triste, aveva bisogno di, non aveva più nessuno, aveva bisogno di qualcuno che la coccolasse o le desse una casa. Non è quello, eh? Figlio, ecco tua madre, Gesù sta dicendo a Giovanni, come Maria ha formato me, rendendomi capace del dono supremo fino alla morte di croce, così io ti affido a lei, perché anche tu arrivi ad essere formato così. È un discorso di formazione, eh? Ecco, Maria è colei in cui Questo discorso di formazione che lei ha descritto con le tre virtù, la fede, la speranza e la carità, raggiunge il più alto livello. Quindi grazie, signora, per queste sue due domande. Pronto? Pronto, con chi parlo? Con Elisa da Reggio Emilia. Mi dica, Elisa. Io sono arrivata da una settimana da Israele. Sì. E ho avuto la grazia di passarvi 10 giorni. Abbiamo visitato tutta la zona setacciata, ma il luogo che mi ha più impressionato è stato Nazareth, alla cappella, alla grotta della Visitazione, dell'Annunciazione. E c'erano pochissime persone. E mi hanno chiesto di leggere i salmi. Ero molto emozionata. Tremo ancora adesso al ricordo. E devo dire che mi ha lasciata veramente attonita, perché è come se la figura di Gesù in quel momento passasse in secondo piano. E accanto a questo sentimento verso la grandezza di Maria si è anche innalzata di riflesso dentro di me la figura di Giuseppe, perché questa creatura si è trovata in una situazione a dir poco, fra virgolette e con rispetto, originale. E mi sono sentita non confusa, ma un po' sola e anche piccola. E allora in quei momenti, e quando ci ripenso, mi vengono sempre dei dubbi che mi sciupano certi momenti grandiosi e faccio fatica ad affidarmi a Dio. E se dicono, e qui lo dico con ironia, se dicono che le grandi anime sono piene di tormento, di dubbi, di paure, io allora, fra virgolette e con ironia, sono una grande anima, ma non mi rende gioiosa questo fatto. Grazie, Elisa. E non so come fare ad affidarmi, ed è tutta la vita che cerco. Io adesso ho 75 anni ed è come se fossi nata ieri, dovessi riprendere tutto il mio cammino da capo. La ringrazio. Prego. Allora, prima di tutto grazie per questa sua condivisione, perché lei ha condiviso con noi ascoltatori un'esperienza sua molto bella, molto intensa, no? E questo ci arricchisce. Quindi la sua telefonata è una piccola visitazione nella nostra trasmissione, davvero, grazie di cuore. Poi lei ha raccontato un'esperienza nel contesto della Basilica dell'Annunciazione e ha detto che mentre era lì, mentre pregava, e anche quando a volte ripensa a quella scena, affiora nel suo cuore un duplice sentimento. Da un lato il sentimento della piccolezza, dall'altro il sentimento della solitudine, si sente sola, no? Sul palcoscenico di questa storia. Ma ecco, lei vivendo queste due dimensioni, non sta altro che vivendo le due sensazioni che Maria deve aver vissuto in quel contesto. Si è sentita piccola e si è sentita anche sola, quello che dicevamo stasera all'inizio del nostro commento, sola. Ecco il suo alzarsi e andare in fretta nella regione montuosa, la regione montuosa è sempre percorsa da persone solitarie, alla ricerca di qualcuno in grado di con cui condividere, in grado di capire quello che lei avrebbe potuto dire. E Maria si dirige verso la casa di Elisabetta. Mentre lei parlava mi veniva in mente la testimonianza, io quest'estate insieme a un gruppo del mio paese, io sono originario di Bariano in provincia di Bergamo, insieme alla mia parrocchia d'origine abbiamo fatto il pellegrinaggio in Terra Santa e mentre guidavo questo pellegrinaggio arrivati nella chiesa dell'Annunciazione a Nazareth ho chiesto a un giovane francescano che prestava servizio se al termine della celebrazione dava una testimonianza al gruppo che stavo guidando, al nostro gruppo. E lui diede una testimonianza molto bella, no? Disse che lui praticamente era addetto ad aprire la chiesa tutte le mattine, quindi al mattino si alzava molto presto per aprire la chiesa alla venerazione dei fedeli. E lui ci diceva, guardate, io tutte le volte che attraverso questa chiesa per andare ad aprire la porta sento di dover ripetere dentro di me, eccomi, sono il servo del Signore. Aprire la porta al nuovo giorno, alla gente, è come rivivere il gesto di Maria che ha aperto la porta alla vocazione che veniva dall'alto. E lui diceva, io in questo modo rivivo ogni giorno, ogni mattina, l'Annunciazione. L'Annunciazione, qui noi possiamo dire, qui il Verbo si è fatto carne. E aprendo quella porta io dico, bene, che questo avvenga anche per me. Ecco, è quello che ci auguriamo e auguro anche tanto a lei, signora Elisa, che ringrazio proprio per questa bella testimonianza. Pronto? Pronto, sì, ecco, buonasera, padre Giacomo, sono Elena, chiamo dalla Sardegna. Volevo chiederle questo, ascoltando la sua trasmissione purtroppo non ho sentito gli ultimi frammenti finali. Ecco, però forse il Signore mi ha fatto ascoltare la parte che era interessante, cioè non interessante, comunque importante per me, perché è un dubbio che ho da tempo. Per una situazione di vita che attraverso, diciamo una croce che per me è molto penosa a livello familiare, io mi trovo in certi momenti, premetto che io sono, faccio parte insomma delle milizie dell'Immacolata, la Vergine Santa mi ha chiamata a consacrarmi l'8, il 7 di dicembre insomma, lo scorso. Quindi io sono proprio, amo la Madonna, ecco, e evidentemente lei mi ha chiamata, non so perché cosa. Ad ogni modo, ecco, quello che voglio chiedere è, in certi momenti della mia vita, e ultimamente sempre più frequentemente, mi capita di avere, quando penso alla mia situazione, eccetera, una tristezza, ma tale e talmente forte che io mi devo stendere. Poi cosa passa? Però io in quei momenti mi devo stendere, addirittura mi viene voglia di dormire e non riesco a pregare, ma c'è ogni tanto una forza che mi fa sollevare dal letto e mi fa andare davanti al Santissimo. Io davanti al Santissimo considero che io cerco di andare a messa tutti i giorni, compatibilmente con la mia vita familiare, con la vita lavorativa, quindi cerco di stare vicina al Signore per andare avanti, alla confessione, eccetera. ma in quei momenti io non riesco a pregare, proprio guardo solo lì muta come muta, non riesco a dire niente. E allora mi chiedo, è questo un segnale di quello spirito di cui lei parlava precedentemente oppure no? Cioè, ecco, ho bisogno di capire, lei certo non conosce la mia situazione, è un po' difficile chiaramente, però si può dire che ci sia appunto questo spirito, perché poi dopo questo passa, io prendo certo. Poi magari la comunione, anche con un grande senso di colpa davanti al Signore, perché certe volte arrivo veramente a dei sensi di grande disperazione. Domenica scorsa ho detto: Signore mio, riprenditi la mia vita perché io non ce la faccio. Ecco, allora anche con grande senso di colpa mi accosto al Signore, però... Ecco, signora Elena, purtroppo abbiamo avuto la linea che è caduta. Cerco comunque di dare risposta alla sua domanda. Sarei imprudente se cercassi di dare una risposta immediata. Allora, sarei imprudente se cercassi di dare una risposta immediata a quello che lei ha chiesto, no? Anche perché bisogna proprio capire bene quello che una persona sta vivendo. Ecco, dovrei essere nuovamente in linea, quindi stavo dicendo alla signora Elena che è difficile dare delle risposte immediate a domande di questo tipo, anche perché uno è giusto essere prudenti e capire bene cosa una persona sta vivendo, no? Quindi il suggerimento che io do per approfondire ulteriormente questa situazione che Elena sta vivendo è quello di una lettura che può aiutare, ecco, ad approfondire la cosa. Suggerisco un testo, il testo di Adalberto Piovano, dal titolo proprio Tristezza, che affronta dal punto di vista spirituale questo spirito nemico, mostrandone le caratteristiche, ma anche indicando la via per superare questo spirito nemico. Quindi di Adalberto Piovano suggerisco la lettura di La Tristezza, edito dalle edizioni San Paolo, l'ho pubblicato nella mia casa editrice. Grazie di cuore Elena per aver condiviso comunque una situazione delicata e difficile. Pronto? Pronto? Con chi parlo? Il mio nome è Maria da Cagliari, dalla Sardegna. Volevo chiedere il mio secondo nome veramente, che è il più bello. Direi questo, dunque, un po' sento sempre parlare della legge divina e quindi penso di avere capito che la legge divina vuol dire leggere la parola di Dio esercitando la fede, quindi dono soprannaturale. Quindi chi dice, è capitato un fatto, chi dice che Maria non è madre di Dio non fa un errore teologico come gli è stato detto, ma manca di fede secondo me. Infatti chi doveva aiutarlo, aiutare questo, è un giovane, doveva aiutarlo, gli ha detto che il suo rapporto con Maria deriva da una dolorosa esperienza di quando era ragazzo, con una ragazza. E quindi praticamente ha dato una spiegazione, io posso dire psicologica, terra a terra, che non ha niente a che vedere col suo problema. Ecco, non so se mi sbaglio, comunque se non mi sbaglio vorrei aiutare sia la persona che ha il problema e sia le persone che gli hanno dato questa spiegazione. Grazie. La ringrazio signora Maria del suo intervento, anche se non ho capito bene il collegamento tra l'esperienza che mi ha detto e la domanda che mi ha fatto sulla lezione divina, però cerco di illustrare un pochino cosa significa lezione divina, cioè cosa significa fare una lettura dei testi che mette in contatto con la vita. Prima di tutto togliamo subito dal campo l'immaginario classico che fa della lezione divina l'esercizio di un'ora, in alcuni casi, magari in alcune realtà anche di mezz'ora, dove la parola di Dio viene letta, meditata, condivisa, pregata e poi si prende un impegno, nelle famose tappe lectio, meditatio, contemplatio, oratio, actio. La lezione divina non è questo, questo è un metodo che ci siamo fatti noi, partendo certo dall'esperienza dei grandi padri, ma io quando vado a incontrare una persona, non è che dico a questa persona, senti, 5 minuti ti ascolto, 5 minuti ti parlo, 5 minuti mi metto a riflettere su quello che tu dici e 5 minuti poi cerchiamo di fare sintesi. No, questo può essere un tipo di esercizio che aiuta l'approfondimento della parola di Dio, ma non è lezione divina. La lezione divina è un movimento della mente, della volontà e del cuore che ci mette davanti alla parola di Dio, ci aiuta a leggerla con attenzione, ci aiuta a, come dire, ad approfondirla, ci mette a confronto con altre persone per poi cercare di interiorizzarla. Ma è un movimento che non può essere ristretto in un tempo limitato di mezz'ora o di un'ora. Pensate che i monaci vivevano la lezione divina nell'arco di una giornata. Era in una giornata che la parola veniva accolta, meditata, approfondita, contemplata e poi in qualche modo vissuta, restituita con la vita a Dio, con la propria vita a Dio. Cioè, era un movimento in cui la parola entrava nella vita delle persone, per poi trasformarsi e plasmare l'esistenza. Quindi, attenzione a confondere una cosa con l'altra, o attenzione a fare delle applicazioni troppo veloci tra quello che succede nella vita e quello che può essere scritto nelle pagine della scrittura. In questo ci vuole molta, molta prudenza, sia per capire bene le pagine di vita di una persona o di quello che è successo a una persona, e sia poi per fare i paragoni tra la parola e questo stile di vita. Ecco, spero che in qualche modo, ecco, di aver risposto alla domanda della signora Maria, che ringrazio per il suo intervento. Pronto? Pronto? Padre Giacomo, buonasera. Renato da Clusone, provincia di Bergamo. Evviva Renato, dalla mia terra chiama, grazie. Davvero, caro, lo so. Senta, volevo dire questo. E io ritengo, e vorrei avere il suo parere, che il regno di Dio si manifesta nell'annunciazione, nella magnifica e nella visitazione. Maria, piena di Spirito Santo, accetta di essere una serva del Signore, cioè di dare la vita al Figlio di Dio, che è l'incarnazione, cioè in Gesù che è Dio. Ora, io ritengo che questo regno di Dio di cui Gesù ha annunciato la sua venuta, ovvero ha annunciato proprio, ha predicato il regno di Dio e la sua venuta, incomincia sì con i profeti, il profeta Daniele che dice un regno che non sarà mai distrutto, che non passerà sotto dominio alcuno questo regno, però ha la sua pienezza proprio con l'inizio di Maria e Gesù che predica, che comincia a Nazareth con Luca 4, quando legge il rotolo di Isaia, comincia nella sua terra e lì il regno di Dio si manifesta. E questo regno di Dio è un regno che è la vita, che poi la vita eterna in Giovanni, regno di Dio, regno dei cieli per Matteo e Marco, vero? Senz'altro questo regno di Dio è un regno che è già presente nel credente, come era presente in Maria. Maria aveva già il regno di Dio, aveva già la vita eterna. Ora io vorrei sapere da lei se condivide questo mio pensiero, che veramente è il regno di Dio, che è la cosa per noi importante, perché noi dobbiamo ricercarlo. Infatti Gesù in Luca 17:21 dice: il regno di Dio è in mezzo a voi, oppure se traducono anche è dentro di voi. Il regno di Dio poi è il regno della pace, della gioia, della felicità, della comunione, della condivisione, dell'accoglienza che noi abbiamo, vero? Deve essere tutti uniti nell'amarci e di sopra di ogni divisione. Per cui io volevo sapere, lei condivide questo mio pensiero, che è pensiero anche, penso, di altri teologi studiosi? Allora, grazie Renato per la sua domanda. Io sono convinto che tutte le pagine della scrittura trasudino il regno di Dio in una sorta di pedagogia in cui ad agio, pagina di storia dopo pagina di storia, questo regno di Dio viene approfondito, viene compreso sempre di più. Nel momento in cui c'è il passaggio tra l'antica e la nuova alleanza, il regno di Dio manifesta tutta la sua logica e giustamente, come lei dice, le pagine dell'annunciazione, della visitazione, le pagine del Vangelo dell'infanzia racchiudono già in nuce tutta la logica del regno, perché anticipano già quello che sarà poi il destino di Gesù. Noi sappiamo che nella redazione dei Vangeli le pagine del Vangelo dell'infanzia sono le ultime che sono state scritte. Cioè, gli evangelisti prima hanno scritto il cuore dell'annuncio del regno, cioè la passione, morte e risurrezione di Gesù, quello è il fulcro. Poi sono andati a ricercare quello che è stato il suo insegnamento, la sua vita, il suo ministero pubblico, e hanno racchiuso il regno attraverso gli insegnamenti di Gesù, le sue parabole, i suoi miracoli, e alla fine sono andati ancora più indietro nel tempo, restituendo i primi istanti della vita di questo regno, come è nato, vedendo già lì in nuce la logica di un regno all'opera. Ecco, il commento più bello, secondo me, al suo intervento lo possiamo fare con le famose parabole del regno, troviamo menzionate una dopo l'altra nei capitoli di Matteo, soprattutto a metà del suo Vangelo. E c'è una di queste parabole molto bella, dove dice che il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ecco, il regno di Dio è questo. Le pagine della scrittura sono piene di uomini che seminano del buon seme nel loro campo. Il seminatore per eccellenza è Gesù, e alla sua sequela ognuno di noi può seminare buon seme nel suo campo, e quando noi facciamo questo siamo proprio immersi nella logica di questo regno che lei ha cercato così di descrivere, di annunciare anche attraverso il passaggio nelle pagine dei profeti. Ecco, questo è il regno di Dio. Grazie Renato per la tua domanda. Buonasera, mi chiamo Laura. Mi dica Laura, da dove chiama? Da Milano. Allora, io ho ascoltato la sua catechesi, la ringrazio tanto per il bene che mi ha donato. Una domanda: noi siamo sposati, sono sposata da 5 anni e non abbiamo ancora bambini. Allora, si sta pregando Maria, no? Questo mese di maggio, certo, per il dono del bambino. Più che lei, no? Mi chiedo, ma... E però non arriva, però mi chiedo, ma... Perché tutto questo, no? Il progetto di Dio lo si intuisce nel profondo, no? Almeno penso, oltre che magari, non lo so, i segni che esterni, adesso io non so captare bene, no? Però mi dico, ma perché Maria non mi fai questo dono? Tu che sei la mamma, allora non so proprio come veramente andare oltre alla preghiera del rosario, no? Proprio con un'insistenza forte per questa grazia, perché è una grazia meravigliosa per un bambino, però tutto questo non arriva, no? Adesso mi è venuta un'ispirazione andare a Fatima, ma adesso mi chiedo, no? A volte sono un po' incerta, mi dico, ma forse Maria mi chiama a Fatima, no? Ma era un'ispirazione che mi è venuta in questi giorni, no? Poi gliel'ho detto a mio marito, no? Però ecco, tutto questo non so come collocarlo dentro a un progetto di Dio. Ecco, allora da lei vorrei proprio capire, cioè, so che è una domanda un po' grande, non so come dire, però ecco, l'intercessione di Maria su questo mio desiderio, no? A volte è un desiderio che intreteggia con tante paure, non è che, perché insomma ho anche la mia età, ho 45 anni, quindi non è così facile, no? Mi sono sposata tardi e quindi il bambino non, abbiamo fatto tutti gli esami e tutto a posto, però ecco, questo attendere nella sofferenza, ecco, la ringrazio. Grazie Laura per questa condivisione, perché sono sicuro che ci sono alcune condivisioni che magari costano un pochino, perché devono mettere così anche davanti agli altri, ecco, la propria ricerca, le proprie richieste. Io una cosa ti posso dire con umiltà, discrezione, certa è una cosa: nel momento in cui tu e tuo marito siete stati uniti in matrimonio ricevendo la benedizione di Dio, Dio era sicuro, certo, che dalla vostra coppia sarebbe partito un progetto di vita. E di questo dovete essere sicuri al 100%. Il Signore si serve di voi per comunicare vita e comunicare vita con intensità. Ecco, il vostro compito è capire qual è il modo in cui questa vita si deve comunicare. C'è una maternità fisica, ma non c'è solo una maternità fisica, ci sono tanti modi in cui una maternità o una paternità possono essere esercitati. I passi giusti mi sembra che li avete fatti, cioè avete verificato da un punto di vista medico se le cose erano in ordine, questo è uno dei primi passi da fare. Vi siete affidati al Signore e alla Madonna e continuate a farlo attraverso la preghiera. Ecco, attenzione a una preghiera che sia monodirezionale, cioè nella preghiera non chiedete solo e sempre il dono di un figlio vostro. Cercate di chiedere anche al Signore di aiutarvi a capire come Lui vuole che voi esercitiate la paternità e la maternità, e di aiutarvi a compiere questo, perché magari per il motivo dei 45 anni, dell'età, non lo so, magari il buon Dio vuole orientare, no, la vostra vita in un altro modo, ma sempre esercitando il dono della maternità e della paternità. Porterò, ecco, anche questa sua richiesta nel mio ricordo, nella mia preghiera, e continui ad affidarsi a Maria. Certamente un pellegrinaggio a Fatima o in qualche altro santuario certamente non fa male. Ci sono anche dei santuari molto più vicini a noi, legati proprio al tema della maternità. A Bra, in provincia di Cuneo, c'è un santuario, il santuario della Madonna dei Fiori, dove si rivolgono tutte le coppie che vogliono capire verso quale direzione la maternità e la paternità può essere esercitata. Faccia anche un salto al santuario della Madonna dei Fiori di Bra, chiedendo proprio con fede al Signore di aiutarla a capire dove Lui la vuole condurre, come vuole che la sua maternità si è esercitata. Grazie Laura per questa tua preghiera e per questa tua testimonianza. Cari ascoltatori, siamo in chiusura della nostra conversazione. Ringrazio gli ascoltatori che sono intervenuti, Aldo, Maria, Elisa, Elena, Maria, Renato e Laura. Ringrazio quanti hanno condiviso le loro pagine di vita, perché questo è sempre delicato ed è un dono prezioso che fanno a tutti noi. E vorrei concludere con una preghiera in questo mese di maggio di San Bernardo da Chiaravalle, che dice così: o chiunque tu sia, sentiamo la rivolta a noi, o chiunque tu sia, che nel mare di questo mondo ti senti come sballottato tra burrasche e tempeste. Se non vuoi essere sommerso dalle onde, non distogliere lo sguardo dal fulgore di questa stella. Se insorgono i venti delle tentazioni, se ti imbatti contro gli scogli delle tribolazioni, guarda la stella, invoca Maria. Se turbato dal pensiero delle tue colpe, stai per lasciarti vincere dalla tristezza e stai per cadere nell'abisso della disperazione, pensa a Maria. Nei pericoli, nelle difficoltà, nei dubbi, pensa a Maria, invoca Maria. Seguendo lei non ti smarrirai, invocandola non ti dispererai, pensando a lei non peccherai. Se lei ti tiene non cadi, se lei ti protegge non temi, se lei ti guida non ti stanchi, se lei ti dà il suo favore arriverai al tuo fine. E questo è l'augurio che faccio a me e a tutti voi, cari ascoltatori, e che la benedizione di Dio e di Maria vi accompagnino sempre. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.